Ángeles Mastretta, Donne dagli occhi grandi, edito Giunti. La zia Leonor aveva l'ombelico più bello che si fosse mai visto, un piccolo punto affondato proprio al centro del ventre piattissimo. Aveva la schiena lentiginosa e le natiche rotonde e sode, come le brocche da cui beveva l'acqua da bambina. Aveva le spalle dolcemente sollevate, camminava adagio come su un filo teso. Chi le ha viste racconta che le sue gambe erano lunghe e dorate, che sul pube aveva un ciuffo rossiccio e altero, che era impossibile guardarle i fianchi senza desiderarla tutta. A 17 anni si sposò col cervello, proprio con il tipo d'uomo che un cervello può scegliere per affrontare la vita. Alberto Palacios, notaio scrupoloso e ricco, la superava di 15 anni, di 30 centimetri e di una dose proporzionale di esperienza. Era stato fidanzato a lungo con varie donne annoiate che finivano con l'annoiarsi ancora di più quando realizzavano che i progetti matrimoniali del laureato erano a lunga scadenza. Il destino volle che un pomeriggio la zia Leonor si recasse nello studio notarile con sua madre per sbrigare una questione ereditaria molto semplice che loro trovavano complicatissima, poiché il defunto padre aveva fatto in modo che la moglie non avesse mai occasione di pensare. Si occupava lui di tutto, salvo andare al mercato e cucinare. Le raccontava le notizie del giornale, le spiegava che opinione se ne dovesse fare, largheggiava nei soldi per la spesa e non le chiedeva mai i conti. Perfino quando andavano al cinema le raccontava il film che stavano guardando insieme. «Vedi Luisita? Quel ragazzo si è innamorato della signorina. Guarda come si guardano, vedi? Vorrebbe accarezzarla. Ecco, ora la carezza». Adesso le chiede di sposarlo e tra poco di sicuro l'abbandona. Insomma, per la povera zia Luisita, la perdita improvvisa dell'uomo esemplare, che fu sempre il papà della zia Leonor, non fu solo dolorosa, ma anche fonte di grandi complicazioni. Con questo dolore e questa difficoltà, entrarono nello studio notarile in cerca di aiuto. Lì ne trovarono di tanto sollecito ed efficace che la zia Leonor, ancora in lutto, si sposò nel giro di un anno e mezzo con il notaio Palacios. La vita divenne più facile che mai. Nell'unico frangente difficile, la zia Leonor seguì il consiglio di sua madre, chiudere gli occhi e dire un'Ave Maria. O meglio, varie Ave Marie, perché a volte ci volevano 10 misteri del rosario prima che il suo imperante marito giungesse alla serie di gemiti e sospiri in cui culminava la pantomima che aveva inevitabilmente inizio quando per qualche motivo, previsto o imprevisto, cingeva con il braccio la vita morbida e sottile di Leonor. Nulla di tutto ciò che una donna può desiderare prima di 25 anni mancò alla zia Leonor. Cappelli, mussoline, scarpe francesi, porcellane tedesche, anelli di brillanti, collane di pelle di varie misure, orecchini di corallo, di turchese, di filigrana. Nulla. Dalla biancheria intima ricamata dalle monache dell'Ordine della Trinità fino a un diadema uguale a quello della principessa Margherita. Ottenne quanto voleva, compresa la devozione di suo marito che poco a poco cominciò a rendersi conto che la vita senza quella donna in particolare sarebbe stata insopportabile. La pantomima amorosa che il notaio inscenava almeno 3 volte alla settimana produsse nel ventre della zia Leonor una femmina e 2 maschi. Come succede soltanto nei film, il corpo della zia Leonor si gonfiò e si sgonfiò tutte e 3 le volte senza danni visibili. Il notaio avrebbe voluto certificare per iscritto tale meraviglia, ma si limitò a goderne, aiutato dalla diligenza placida e cortese che gli anni e la curiosità avevano donato a sua moglie. Il circo migliorò tanto che la zia Leonor cessò di tollerarlo con il rosario tra le mani e giunse perfino ad apprezzarlo, addormentandosi poi con un sorriso che le durava tutto il giorno. Non poteva essere migliore la vita in quella famiglia. La gente parlava sempre bene di loro, erano prese a modello. Le donne non conoscevano il migliore esempio di benevolenza e solidarietà di quella offerta dal laureato Palacios alla fortunata Leonor. E gli uomini, nei momenti di peggiore irritazione, evocavano il pacifico sorriso della signora Palacios mentre le loro mogli sciorinavano una litania di lamentele. Forse le cose sarebbero andate avanti così se una domenica la zia Leonor non fosse venuto in mente di comprare delle nespole. Andare al mercato la domenica era diventato per lei un rito solitario e felice. Per prima cosa lo abbracciava con lo sguardo, senza voler vedere esattamente da quali frutti uscissero quali colori, mescolando le bancarelle dei pomodori con quelle dei limoni. Camminava senza fermarsi fino al banco dove un donnone enorme dal viso centenario modellava delle tortillas di mais. Dal disco di terracotta la piccola Eleonor prendeva la sua tortilla di ricotta, ci spalmava con cautela un po' di salsa rossa e la mordeva lentamente mentre faceva le compere. Le nespole sono piccoli frutti dalla buccia come di velluto di colore giallo intenso. Alcune sono aspre, altre dolci. Crescono disordinatamente sui medesimi rami di un albero dalle foglie lunghe e scure. Molti pomeriggi, quando ero una bambina con le trecce e le gambe svelte di un gatto, la zia Eleanor si arrampicava sul nespolo nel giardino dei suoi nonni. Lassù si sedeva a mangiare in fretta, tre aspre, una dolce, sette aspre, due dolci, finché la ricerca e il miscuglio di sapori divenivano un gioco delizioso. Le bambine avevano il divieto di salire sull'albero, ma Sergio, suo cugino, bambino dagli occhi precoci, le labbra sottili e la voce decisa, la induceva a inaudite e segrete avventure. Salire sull'albero era una delle più facili. Vide le nespole al mercato e le parvero strane, lontane dall'albero ma non del tutto, perché le nespole si intagliano insieme ai rametti più piccoli e ancora pieni di foglie. Tornò a casa con i frutti, li mostrò ai suoi figli e li mise seduti a mangiare, mentre raccontava come erano forti le gambe di suo nonno e all'insù il naso di sua nonna. In breve ebbe la bocca piena di noccioli scivolosi e bucce vellutate. Allora di colpo le ritornarono i suoi 10 anni, le mani avide, il desiderio dimenticato di Sergio arrampicato sull'albero che le strizzava l'occhio. Soltanto in quel momento capì cosa le avevano portato via il giorno in cui le avevano detto che i cugini non possono sposarsi tra loro, perché Dio li castiga facendo nascere figli che paiono ubriachi. Ormai non poteva tornare indietro. Da quel momento la felicità dei suoi pomeriggi fu avvelenata da quella nostalgia improvvisa, inconfessabile. Chiunque si sarebbe appagato della pace provata guardando i figli fare barchette di carta sotto la pioggia, dell'affetto incondizionato di un marito buono e lavoratore. Chiunque, tranne la smodata zia Leonor, che aggiunse a ciò la certezza in tutto il corpo di non dover rinunciare al cugino che faceva fremere il suo perfetto ombelico, di meritarselo per tutte le ragioni del mondo e da sempre. Un pomeriggio lo incontrò sull'avenida Cinco de Mayo. Lei usciva dalla chiesa di Santo Domingo con un bambino per ogni mano. Li aveva portati a offrire fiori, come tutti i pomeriggi di quel mese. La bambina, con un vestito lungo di pizzo e organza bianca, una coroncina di paglia e un enorme velo in disordine, come una sposa di 5 anni. Il bambino con un costume da chierichetto che mortificava i suoi 7 anni. Se tu non fossi scappata di corsa in casa dei nonni quel sabato, questi due sarebbero miei, disse Sergio dandole un bacio. Vivo con questo rammarico, rispose la zia Leonor. Non si aspettava una risposta del genere lui, uno degli scapoli più ambiti della città. A 27 anni, appena arrivato dalla Spagna, dove si diceva avesse appreso le migliori tecniche per la coltivazione degli ulivi, il cugino Sergio era erede di un'azienda agricola a Veracruz, di un'altra a San Martín e di un'altra ancora più vicina ad Alzalán. La zia Leonor notò lo sconcerto nei suoi occhi, nella lingua con cui si inumidì un labbro, quindi lo sentì rispondere. Sarebbe come tornare ad arrampicarsi sull'albero. La casa della nonna rimaneva sulla Once Sud, era enorme e piena di meandri. Aveva uno scantinato con 5 porte dove il nonno aveva passato ore e ore immerso in esperimenti che a volte gli annerivano il viso. Allora lasciava perdere per un po' le stanze sotterranee e si circondava di amici con cui giocare a biliardo nel salone costruito sulla terrazza. La casa della nonna aveva un salotto che si affacciava sul giardino e sul frassino, un cortile per giocare a pallamuro che loro avevano sempre utilizzato per pattinare, una sala rosa con un pianoforte a coda e un'esausta marina notturna, una camera da letto per il nonno e una per la nonna, e nelle stanze che erano state dei figli vari soggiorni che prendevano nome dal colore delle pareti. La nonna, paralitica e piena di ricordi, si era messa a dipingere nella stanza azzurra. La trovarono lì, intenta a tratteggiare con la matita le buste di vecchie partecipazioni di nozze che le era sempre piaciuto conservare. Offrì loro del vino dolce, quindi del formaggio fresco e infine dei cioccolatini rancidi. Era tutto come sempre a casa della nonna. L'unica stranezza la fece notare la vecchietta dopo un po'. Voi due, sono anni che non vi vedo insieme. Da quando mi dicesti che se i cugini si sposano fanno figli dementi, rispose la zia Leonor. La nonna sorrise, china sul foglio su cui delineava senza tregua un fiore interminabile, petalo dopo petalo. Da quando per poco ti ammazzi, scendendo dal nespolo, disse Sergio. Però eravate bravi a tagliare le nespole, adesso non c'è più nessuno che lo faccia. Siamo ancora bravi, disse la zia Leonor, inclinando la vita perfetta. Uscirono dalla stanza azzurra sul punto di togliersi i vestiti. Scesero in giardino come attratti da una forza misteriosa e tornarono 3 ore dopo con la pace in corpo e 3 rami di nespole. Siamo fuori allenamento, disse la zia Leonor. Recuperate, recuperate, che la vita è breve, rispose la nonna con la bocca piena di noccioli di nespola. La tenuta di Arrochio Zarco era una lunga frangia di terra fertile sulla cordigliera a nord di Puebla. Nel 1910 i proprietari vi coltivavano caffè e canna da zucchero, mais, fagioli e ortaggi. Il paesaggio era verde tutto l'anno. Pioveva con il sole, senza sole e sotto tutte le lune. Pioveva con tanta naturalezza che a nessuno veniva in mente di coprirsi per uscire a passeggiare. La zia Elena non passò molto tempo sotto quelle piogge. In un primo tempo, perché nelle vicinanze non c'erano scuole, i suoi genitori la mandarono al Collegio del Sacro Cuore a Città del Messico. A 300 km, 20 ore di treno, uno spuntino e la notte da trascorrere nella città di Puebla. A colazione contemplava già la nostalgia dei 10 mesi seguenti, lontano dalla stravagante cucina di sua madre e vicino al francese e alle riverenze di monache inospitali. In seguito, terminati con onore gli studi di aritmetica, grammatica, storia, geografia, pianoforte, cucito, francese, bella calligrafia, stava appena cominciando a rallegrarsi di essere tornata alla campagna e all'inquietudine quando dovette andarsene un'altra volta, perché arrivò la rivoluzione. Quando i ribelli entrarono nella tenuta per appropriarsi delle sue pianure e delle sue acque, il padre della zia non oppose resistenza. Consegnò la casa, il patio, la cappella, il mobilio con quella gentilezza che lo aveva sempre distinto dagli altri proprietari terrieri. Sua moglie mostrò alle donne dei ribelli la strada per la cucina e lui tirò fuori l'atto di proprietà della tenuta per consegnarlo al capo della rivolta. Sistemò quindi la famiglia in un'automobile e se la portò quasi sorridente a Teziutlan. Correva voce che fossero un po' matti, così quando comparvero in paese incolumi e tranquilli le altre famiglie di possidenti, si convinsero che Ramos Lamb avesse qualcosa a che fare con i ribelli. Non poteva essere un caso che non gli avessero bruciato la casa, che le sue figlie non fossero terrorizzate, che sua moglie non piangesse. Li guardavano storto quando passeggiava per il paese, allegri e ciarlieri, come se nulla fosse successo. Ma l'atteggiamento del padre era talmente tranquillo e sereno che nessuno in famiglia vedeva motivo di tormentarsi. Dopotutto, se lui sorrideva, voleva dire che per il giorno seguente, per i prossimi 10 anni, avrebbero avuto cibo sulla tavola e crinoline sotto le sottane di seta. Nessuno sarebbe rimasto senza peinetas, medaglioni, spille, orecchini con brillante, bicchieri di porto per accompagnare il formaggio. Soltanto un giorno lo videro inquieto. Aveva passato varie ore seduto allo scrittoio nella casa di Teziutlan a disegnare quella che sembrava una mappa e che non riusciva a soddisfarlo. Continuava a cestinare fogli con la medesima sensazione di impotenza di chi cerca di ricostruire la strada per un tesoro sotterraneo secoli prima. La zia Elena lo osservava da una poltrona senza aprire bocca, tutta concentrata sui suoi gesti. All'improvviso lo vide soddisfatto e lo sentì borbottare tra sé e sé in modo euforico. Piegò il foglio in quattro e lo ripose nella tasca interna della giacca. «Sarà pronta per la cena?» le chiese guardandola per la prima volta senza dare spiegazioni o accennare a ciò che lo aveva tenuto tanto occupato tutto il pomeriggio. «Vado a vedere», rispose la zia Elena e andò in cucina a sbrigare varie faccende. Quando tornò, suo padre sonnecchiava in una poltrona dallo schienale molto alto, si avvicinò piano e andò al cestino della carta a straccia per recuperare alcuni dei pezzi che lui aveva gettato. Li mise in un libro, quindi lo svegliò per dirgli che la cena era pronta. Si facevano le cose in grande in casa Ramos. Perfino in quei tempi di ristrettezze, la madre faceva in modo di preparare pranzi di 7 portate e cene con un minimo di 5 ospiti. Quella sera avrebbero avuto minestra di funghi, torta di mais, formaggio con pomodoro e fagioli saltati in padella. Per finire, cioccolata calda e certi panini zuccherati e brillanti che la zia Elena non avrebbe mai più visto dopo la rivoluzione. Con tutta quella roba nello stomaco, i membri della famiglia se ne andarono a dormire e a ingrassare senza alcun ritegno. Degli 8 figli che la signora Ramos aveva partorito, 5 erano morti di malattie come il vaiolo, la pertosse e l'asma, cosicché i 3 superstiti crebbero ipernutriti. Erano tutti d'accordo che fosse la buona e abbondante alimentazione ad aiutarli a sopravvivere. Quella sera, però, il padre della zia sorprese la famiglia con il suo scarso appetito. «Mangia, uccellino, ti ammalerai», supplicò donna Otilia a suo marito, che aveva una stazza di 1,80 m e 90 kg a fare buona guardia alla sua anima. Elena chiese il permesso di alzarsi da tavola prima di aver terminato l'ultimo boccone del suo panino zuccherato e andò a rinchiudersi con una candela nella stanza degli ospiti. Mise insieme alcuni dei pezzi di carta e lesse l'inchiostro verde del padre. Sulla mappa era disegnato un sentiero che arrivava alla tenuta dal retro della casa e conduceva direttamente al locale che aveva scavato sotto la cucina. Il vino, l'unica cosa di cui suo padre si era lamentato da quando aveva comprato a Royal Tharco, era la perdita del suo vino, della sua collezione di bottiglie con le etichette in lingue diverse, colme di una bevanda che la zia Elena aveva imparato a centellinare dal bicchiere dei grandi sin da piccola. Suo padre, quell'uomo fermo e moderato, sarebbe stato capace di tornare alla tenuta per riprendersi il vino? Era per questo che a mezzogiorno l'aveva udito chiedere a Cirillo un carretto con un cavallo e della paglia? La zia Elena prese uno scialle e scese le scale di corsa. In sala da pranzo suo padre stava ancora cercando di giustificarsi con sua moglie per il grave delitto di inappetenza. «Non offenderti, tesoro. So bene quanto ti costa organizzare ogni pasto in modo da non farci rimpiangere quelli di un tempo. Stasera però ho una faccenda da sistemare e voglio rimanere leggero». Non appena sentì suo padre dire «stasera», la zia Elena uscì di corsa nel patio in cerca dell'unico carretto. Cirillo, il garzone, aveva attaccato un cavallo e montava la guardia in silenzio. Perché Cirillo non se n'era andato con i rivoluzionari? Perché se ne stava lì tranquillo accanto al cavallo, immerso nel soliloquio di sempre? La zia Elena, passandogli alle spalle in punta di piedi, andò a infilarsi nel retro del carretto. Poco dopo udì la voce di suo padre. «Hai trovato della buona paglia?» domandò al garzone. «Sì, padrone, la vuole vedere?» La zia Elena pensò che avesse assentito col capo, perché lo udì avvicinarsi e sollevare un lembo della stuoia che ricopriva la paglia. Sentì la mano di suo padre muoversi a 3 palmi dal suo corpo. «La paglia è ottima!» disse allontanandosi. La zia Elena tirò un sospiro di sollievo e allentò la tensione del collo. «Tu non vieni, Cirillo», disse il signor Ramos. «Questo è un capriccio del mio palato e se qualcuno deve pagare sono soltanto io». «Se non torno, di' alla mia signora che tutti i pasti che mi ha cucinato nella vita sono stati deliziosi e a mia figlia Elena che non l'ho cercata per darle un bacio perché voglio che il mio debito rimanga in sospeso». «In bocca al lupo», rispose Cirillo. Il carretto si mosse lentamente. Lentamente abbandonò il paese immerso nelle tenebre e imboccò un sentiero che doveva essere stretto proprio come l'aveva immaginato la zia Elena quando l'aveva visto disegnato con una linea sola. Non doveva esserci spazio né su un lato né sull'altro, perché il carretto avanzava a stento e il cavallo non poteva correre come quando lei lo guidava per la strada maestra. Ci misero più di un'ora ad arrivare, ma a lei il viaggio parve breve, perché si addormentò. Si svegliò quando il carretto si stava fermando e nell'aria si udiva soltanto il sussurro con cui suo padre richiamava il cavallo. Sporse la testa per capire dove fossero e vide di fronte a sé il retro della grande casa, di cui per tutta la vita avrebbe sentito nostalgia. Suo padre fermò il carretto e scese. La zia Elena lo vide tremare sotto la faccia della luna. A quanto pareva nessuno era di guardia. Suo padre si diresse verso una porta e l'aprì con una chiave gigantesca, quindi scomparve. Allora la zia Elena uscì dalla paglia e lo seguì nella cantina illuminata da una lanterna appena accesa. «Ti aiuto?» gli chiese con la sua voce roca. Aveva il viso insonnolito e i capelli pieni di paglia. Non avrebbe mai più dimenticato l'orrore che vide negli occhi di suo padre. Per la prima volta in vita sua, nonostante fosse accanto a lui, ebbe paura. Anche a me piace il porto, disse, cercando di controllare il tremolio della voce. Poi afferrò due bottiglie e andò a depositare nella paglia del carretto. Al ritorno incrociò suo padre, che ne portava altre quattro. Continuarono così ad andare e venire nel silenzio finché il carretto fu carico e non rimaneva spazio neppure per una bottiglia di porto, di quello che la zia Elena aveva imparato a bere sulle ginocchia di quell'uomo assennato e costante, che quella notte l'aveva sorpresa con la sua follia. Prese ancora due bottiglie e se le mise in grembo per pagarsi il passaggio, quindi spronò il cavallo e il carretto si diresse verso il sentiero angusto e nascosto per il quale erano venuti. Avrebbero impiegato delle ore a tornare a casa, ma era già impensabile che stessero per andarsene senza che nessuno li avesse visti. Neppure uno dei contadini che avevano occupato Arroyo Zarco controllava il retro. «Se ne saranno andati?» domandò la zia Elena a suo padre e saltò giù dal carretto senza dargli il tempo di fermarla. Corse verso la casa e camminando rasente al muro nell'oscurità e girò intorno finché non andò a sbattere contro una delle panche che facevano la guardia al portone d'ingresso. Nemmeno una luce spezzava l'oscurità, non una voce, né un grido, né un rumore di passi, né un solo segno di vita alle finestre. «Non c'è nessuno!» gridò alla zia Elena. «Non c'è nessuno!» ripeté stringendo i pugni e mettendosi a saltare. Tornarono di buon passo per la strada maestra. La zia Elena canticchiava: «Un viejo amor!» nostalgica come una vecchia. A 18 anni gli amori del giorno prima sono già vecchi e a lei erano successe tante cose quella notte che di colpo avvertì nei suoi amori uno strappo impossibile da ricucire. Chi avrebbe creduto alla sua avventura? Il suo fidanzato in paese non credette neppure una parola. «Elena, per l'amor del cielo, non dire sciocchezze!» le disse spaventato quando sentì la storia. «Non sono tempi per fantasticherie. Posso capire che la perdita della tenuta sia stato un brutto colpo per te, ma non coprire di ridicolo tuo padre facendolo passare per un ubriacone irresponsabile.» Lo aveva già perduto sotto la luna spietata del giorno prima e non tentò neppure di convincerlo. Una settimana dopo salì sul treno in cui sua madre era riuscita a stivare dal salotto Luigi XV a 10 galline, a 2 galli e una vacca con il suo vitellino. Non portava altri bagagli se non il futuro e la precoce certezza che anche il più equilibrato degli uomini ha qualche rotella svitata.